Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. La possibilità di investire nel debito di paesi come Portogallo ed Irlanda, la difficoltà dell'economia greca sotto il controllo della Troica e di quella spagnola, su cui pesa anche la minaccia del taglio del rating da parte di Moody's. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. Le scorse settimane sono state caratterizzate da una forte attenzione sulla solidità di alcuni paesi europei, che è andata a ripercuotersi sul mercato obbligazionario. Gli spread hanno ripreso a salire in seguito alle tensioni in Spagna e alla possibilità che il paese possa presto chiedere un piano di salvataggio all'Europa. Nuovi dubbi si sono rincorsi anche sulla Grecia, dove la Troica ha riscontrato un buco nelle casse dello Stato ancora più importante di quanto previsto. In Italia nel frattempo si sono susseguite diverse aste di titoli di Stato, con risultati nel complesso positivi. Ci sono però alcuni dei paesi cosiddetti periferici di cui ultimamente si parla un po' meno. Qual è la situazione in Irlanda e Portogallo? È ragionevole pensare di investire nel debito di questi paesi? Lo abbiamo chiesto a Giulio Casuccio, responsabile delle gestioni quantitative e ricerca di Fondaco SGR. La situazione è abbastanza diversa per l'uno e per l'altro paese. Positiva decisamente per l'Irlanda, che tra l'altro in questi mesi è tornata a emettere sul mercato obbligazionario con dei T-bills, quindi la carta breve, 3-6 mesi, però ha riavviato dopo quasi 2 anni un piano di vendita di sul mercato con una buona risposta di domanda al momento dell'asta e anche con un buon movimento sul mercato secondario. Hanno poi beneficiato anche loro del restringimento di spread ai paesi periferici in maniera significativa, perché oggettivamente hanno fatto, partendo molto in anticipo, comunque in maniera molto, molto rapida, tutti gli interventi necessari per arginare i problemi che tra l'altro in Irlanda erano estremamente limitati al sistema bancario, sì. In un contesto economico invece più forte decisamente di quello portoghese. Non c'era un settore pubblico mangia soldi come per esempio in Grecia e oltretutto truccati, esattamente, no? Esattamente, e poi c'era un sistema economico tutto sommato solido, che è cresciuto molto negli anni, di sicuro un po' gonfiato dal appunto sistema finanziario e dalle banche, ma c'era anche una parte di economia reale solida. Situazione diversa in Portogallo, in cui se ricomincia a parlare proprio in questi giorni, magari più posto tra i vecchi lavori che non ancora sui giornali. Eh no, ce lo anticipi allora, vediamo qualche notizia ogni tanto anche noi. No, Portogallo sta rivedendo le stime di deficit di PIL sul secondo o terzo trimestre di quest'anno e sono peggiori di quelle che erano le aspettative. Per una questione abbastanza, tra virgolette, prevedibile, le misure fiscali fortemente restrittive e le misure di riduzione del debito che hanno messo in atto l'ultimo anno e mezzo stanno cominciando a mordere in maniera negativa sull'economia, che significa economia che sarà ancora in recessione di altri 2 punti, probabilmente per quest'anno, di sicuro per quest'anno, ma anche per il prossimo, che significa che in particolare i ricavi fiscali, le entrate fiscali, il gettito fiscale è stato più basso rispetto alle aspettative e quindi questo ha portato minori entrate per lo Stato, hanno aumentato l'IVA, ma nel frattempo sono ridotti i consumi, quindi il risultato netto è rimasto invariato se non negativo, così come hanno ridotto il costo del lavoro anche di enti pubblici, ma aumentata la spesa per i sussidi di disoccupazione, quindi alla fine anche qui il saldo è dovuto essere più negativo che positivo. E questo è un segnale importante, nel senso per far riflettere, per dare indicazione di quanto poi sia importante ponderare gli interventi di rigore fiscale con un occhio anche alla crescita. Ennesimo picco nella disoccupazione dell'Eurozona, che ad agosto ha raggiunto il nuovo record dell'11,4%, il più alto dalla creazione della moneta unica. Lo ha reso noto lunedì Eurostat, che ha di nuovo rivisto al rialzo il dato di luglio, dall'11,3% all'11,4%. Ai massimi livelli anche il tasso dell'Unione Europea a 27 paesi, al 10,5%. Sempre lunedì è cominciata ad Atene quella che sarà forse l'ultima, ma certamente la più decisiva, tornata delle trattative fra il governo ellenico e la Troica, formata da Fondo Monetario, Unione Europea e Banca Centrale Europea. Nel pomeriggio i rappresentanti dei creditori internazionali della Grecia hanno incontrato il ministro delle Finanze Stornaras, col quale hanno rivisto le misure proposte dal governo per finalizzare il pacchetto dei tagli al bilancio da 13 miliardi e mezzo per il 2013-2014, che aprirebbero la strada alla concessione della nuova tranche di aiuti da 31 miliardi e mezzo. L'obiettivo del governo ellenico era l'approvazione entro la settimana del pacchetto di misure e il raggiungimento di un accordo con la Troica. Il timore però è che la Troica possa bocciare alcune delle misure già approvate o che rimetta sul tavolo delle trattative la questione delle riforme strutturali, cosa che significherebbe un ulteriore ritardo degli aiuti. Fra queste riforme, la liberalizzazione delle professioni chiuse o quella del contratto di lavoro nel settore privato. I greci devono mantenere i propri impegni, ma noi dovremmo dargli più tempo per completare le riforme. E quanto ha detto il candidato cancelliere della SPD, Pierre Steinbrück, in un'intervista al quotidiano Die Welt. Secondo Steinbrück, confermato dalla presidenza del Partito Socialdemocratico Tedesco alla unanimità come sfidante dell'attuale cancelliera Angela Merkel per le prossime elezioni di settembre 2013, la Grecia non potrà ricorrere al mercato dei capitali per i prossimi 7-8 anni. Sentiamo a partire da questo il commento di Vittorio Darold delle Sole 24 Ore al microfono di Sebastiano Barisoni. Steinbrück, che appunto è questo ex ministro delle finanze in un governo di coalizione precedente e quindi uno che insomma ne sa di queste cose, ha ammesso e ha invitato il cancelliere tedesco, che sarà il suo rivale, quindi Angela Merkel, a dire la verità, cioè per almeno 6, 7, 8 anni la Grecia non potrà tornare sui mercati, perché la recessione implica immediatamente il fatto che si riducono anche le entrate e quindi il deficit, anche se tu naturalmente tagli e riduci, non verrà raggiunto, e questo nel piano di ristrutturazione prevede il ritorno, anche se graduale, della Grecia sul mercato nel 2015. Tutto questo è quindi, secondo Steinbrück, impossibile, e quindi invita tutti a dire prendiamone atto e prendiamo atto che in qualche modo la Grecia va aiutata, perché la sua uscita creerebbe più problemi di quanto ne potrebbe appunto creare, e allora diamo o riduciamo i tassi o allunghiamo i tempi per ridurre, per restituirci i crediti, oppure diamo più tempo a restituire ai bond che ha comprato la BCE. La BCE però ha già detto no, io non c'entro, tocca agli stati. E quindi toccherà agli Stati e al Fondo Monetario trovare una soluzione. Sta di fatto che quasi ormai tutta la stampa tedesca si sta orientando sul fatto che gli aiuti, la tranche, verrà data comunque. Però la Grecia nel frattempo sta facendo pulizia, perché questo piano da 13 miliardi e mezzo a me sembra ancora sulla carta. Sì, è molto sulla carta, perché il problema è che è un governo di coalizione, quindi Samaras ha due partiti che sono, diciamo così, più vicini alle esigenze della centrosinistra, e quindi naturalmente quando si chiede, probabilmente la Troica ha chiesto nuovamente il licenziamento di 15.000 dipendenti, ricordiamo che la Grecia ha 650.000 dipendenti pubblici e ne basterebbero solo 500.000, quindi ne ha 150.000 in più. Allora cosa chiede la Troica? Chiede di ridurne almeno 15.000, cioè cominciare a sfoltire per ridurre appunto queste spese, ma su questo cominciano subito i problemi, perché sono misure antipopolari, cioè sono misure che naturalmente scatenerebbero un nuovo sciopero generale. Tra parentesi, i sindacati hanno già annunciato che a ottobre ne faranno il quarto sciopero generale. Questo è il vero problema. Poi chiedono di ridurre dei costi naturalmente sulla vicenda dei contratti, delle liberalizzazioni che sono sempre state fatte sulla carta ma non sono state mai applicate. Anche qui purtroppo vediamo che anche noi abbiamo promesso molto più di quello che poi riusciamo a fare con decreti attuativi. Ecco, anche qui la Grecia ha promesso e ha detto alla Troica che avrebbe fatto le liberalizzazioni, poi però nei fatti manca un decreto, manca un'attuazione, non si sono poi realizzate e quindi la competitività del paese resta sempre al palo, perché corporazioni, interessi eccetera impediscono che quelle leggi, quelle riforme varate e approvate poi trovino sul terreno una sua espressione. Continuano le voci su una possibile richiesta di aiuti da parte della Spagna. La situazione del paese resta critica anche per la minaccia di un taglio del rating che rischia di mettere in ginocchio Madrid, impedendole l'accesso ai mercati per finanziarsi. Moody's si pronuncerà a breve sul merito di credito della Spagna e intanto ha fatto sapere che la cifra di 40 miliardi di ricapitalizzazione previsti per le banche è al di sotto di quanto stimiamo per la stabilità nel caso di scenari avversi o altamente avversi. Sebastiano Barisoni ne ha parlato con Luca Veronese del Sole 24 Ore. La decisione di Moody's di oggi di rinviare il giudizio e la revisione e probabilmente il declassamento della Spagna non è del tutto negativa per Madrid, anzi hanno altro tempo per discutere con l'Unione Europea, è tempo però che forse non serve a niente, perché insomma tutto serve in questo momento meno che l'attendismo e l'indecisione. Ieri parlavo con un collega, diciamo, o meglio una persona che lavora in una grande banca spagnola, e mi diceva: i mercati vogliono solo vedere i soldi o dell'Unione Europea o della Spagna in qualche modo. In questo momento non ci sono né gli uni né gli altri per il salvataggio della Spagna, dell'economia spagnola, e quindi i mercati attendono ma sono pronti a scatenarsi, e un downgrade di Moody's sarebbe quasi letale per la Spagna, perché scatenerebbe appunto di nuovo pressione sui titoli, sui rendimenti e debito insostenibile. Sì, è molto importante quello che tu hai appena detto, cioè c'è una quiete che però potrebbe precedere la tempesta se la Spagna non chiarisce di quanto ha bisogno. Cioè non può la Spagna dire potremmo aver bisogno di 100 miliardi come ha fatto, diciamo, prima dell'estate, poi diventano 60 secondo la Lagarde, il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, a settembre. Le banche spagnole sono in estrema difficoltà, non le due più grandi, non il Banco di Bilbao, Vizcaya, né il Banco Santander, ma per esempio Bankia. E Rajoy continua a avere questo atteggiamento. Ti chiedo, ma quanto c'è di orgoglio spagnolo? Secondo me la cosa dell'orgoglio spagnolo un po' ce la raccontiamo un po'. No, chiedo perché magari. No, un po' anche gli spagnoli la raccontano per sostenere. Per sostenere in parte anche l'incapacità del governo di decidere, perché adesso con tutte le attenuanti che si vogliono dare a Rajoy è inevitabile. Ma sì, è quello che non capisco, no? Cioè, come sembra un po' l'errore che fece la Germania con la Grecia, che pensò di poterla non salvare, poi di fatto l'abbiamo dovuta salvare a costi molto più alti. Cioè qui rischi. Prego. Ci sono meccanismi politici che sono altrettanto importanti di quelli finanziari, che purtroppo in questa fase hanno dei tempi. Mi spiego, Rajoy in questo momento è un capo famiglia, probabilmente non molto previdente, che è stato travolto dagli eventi, è stato licenziato, vedete voi come far calzare l'esempio. Deve da una parte pagare i fornitori, il salumiere, la scuola, tutto, e dall'altra però deve far star bene anche i suoi familiari nel frattempo, e quindi non sa come fare. È evidente che è stretto fra due fuochi e non sa come uscirne. È quello che spaventa la crisi spagnola, si è vista anche nella presentazione del budget della settimana scorsa, è proprio l'incapacità di trovare una linea. E hanno presentato un budget di tagli che ha fatto più o meno contento l'Unione Europea, prevedendo un calo del PIL quest'anno dell'1,5%, l'anno prossimo dello 0,5%, quando tutti già si sa che sarà almeno dell'1,5% anche l'anno prossimo. Quindi una finanziaria campata per aria, dei sogni. E non si sa, non sanno come uscirne. Chiedere aiuto non è detto che sia la soluzione, secondo la Spagna. Se a questo aggiungiamo, e scusa se vado un po' lungo, che la Germania e alcuni paesi del nord in questa fase non premono molto sulla Spagna perché chieda il salvataggio internazionale, abbiamo chiuso il cerchio. Se la Germania non è decisa a imporre il salvataggio alla Spagna, la Spagna difficilmente si muoverà. Sì, questo è il punto. Cioè, o la Spagna, diciamo, chiarisce la linea, ma tu ci stai spiegando che loro non sono convinti che questa possa essere la linea. No, io non ho capito però onestamente quale possa essere l'alternativa agli aiuti, perché abbiamo visto regioni spagnole, penso all'Andalusia, chiedere 4 miliardi, banche locali chiedere aumenti di capitale. Cioè, c'è un'altra strada possibile? Tagli? Ci sono due vie d'uscita probabilmente che hanno in mente, anche se non possono dichiararle, e a microfoni spenti ogni tanto le lasciano sfuggire. La prima è quella che stanno perseguendo da sempre, che è molto mio e anche davvero sfortunata come linea, e che è quella di tutti siamo male, aiutiamoci tutti. E per questo che a loro farebbe molto piacere agli spagnoli se anche l'Italia fosse nelle condizioni di chiedere aiuto. Così si fa un bel pacchetto, l'Italia sta messa male, la Spagna sta messa male, non parliamo più della Grecia e del Portogallo che stanno messe ancora peggio, e quindi sai, mal comune, mezzo gaudio, se si può dire così, ma in realtà mal comune è male e peggio ancora per tutti. L'altra cosa che tentano di fare, e questa è davvero solo una speranza dal nostro punto di vista, non vorrei dare degli incompetenti o degli improvvidi ai governanti spagnoli, ma davvero non la crisi ha travolto anche le loro intenzioni. E comunque l'altra linea è quella di sperare che davvero i mercati si calmino. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.